l'anno e sono di coda lunga, quindi figurati. E se non si portava l'apparecchio, si doveva buttare. Io avevo detto, vabbè, usalo tu. E così l'apparecchio si sistema da solo. Non c'è più. Venduto, 250 euro ho venduto. Quanto? 250. L'ha regalato, dai. Non so che l'ho regalato, ma l'ho regalato un amico, non l'ho regalato a... l'ho regalato un amico, che se non merita la verità. Mi ha regalato un sacco di roba a lui, quindi è tornato a 3,50 e te l'ho fatto via, gli ho detto. La verità. C'era... gli ha tolto il bip, gli ha fatto la revisione all'interno, tutto, gli ha modificato la RC, perché il mio era 3 gira la verità, perché... e quindi adesso la posta pompa parecchio, è stato vantato, la verità, dove la stanno usando, non sanno neanche lui di tu la sto usando, se non un altro, è stato vantato, cresce molto molto molto bene, più del TS 2000 ha detto che cresce, quindi infatti ho fatto un regalo più che altro. Vabbè, era un modo di dire, regalato, vabbè, poi mi avete che condizioni era, il mio era fiammante. Io ho fatto 300 mi sa, o 350, non mi ricordo, ma il mio era fiammante, quando l'ho avuto non mi creo, no, era di Dio di questo tipo, ma poi il padre vuole arrivo subito, non arriva niente. Ciao, no, io sto chiudendo, stiamo uscendo adesso, dai, facciamo una passeggiata a cosa, col bambino, fuori dalla bocca a l'aria. E dopo, ciao, facciamo un po'. Ciao, ci sentiamo le prossime. Mi sono arrivato un difetto anch'io cinese, 030 250 euro, nuovo, fiammante con la tastiera, almeno so che è nuovo, non devo stare a trasmettere con gli apparecchi di 10-15 anni, sta arrivando fra una settimana prima. Beh, brutto bosco. Giorgio di Pirri. Ciu, hai detto che devi entrare da bene 6 minuti, 10 anni sono passati. Sono sceso giù, è venuto anche se mia madre, mamma mia, non te parlo niente, non te dico nulla, guarda. Devo stare giù a mettere a posto mia madre perché non la gioca più, si incazza adesso sulle cose, quindi sto facendo il bandante, capito? Mi sa che mi scrivo al corso, almeno sono tranquillo, mi faccio un buon lavoro, guarda. Vabbè, se la mamma si può fare, là, Antone, dopo che ti ha fatto, da cresciuto, da mangiare, sei grasso come tu puoi scritto, adesso non ti lamentare. Ma chi si lamenta, Roberta? Mica mi lamento io, ci mancherebbe. A parte la lavo io adesso, lei la batta a me, sono lavo io a lei, nella doccia, quindi... Lei sa come sono fatto io sono fatto come, cioè, so come è fatta lei, a parte sapevo come l'ha fatta anche mia sorella quando era piccola, perché ho fatto la babysitter per 2 anni, e mi è passata anche la voglia, la verità. Dico che i bambini degli altri sono i miei, adesso mi faccio uno, il figlio, me lo faccio negro, in modo che quando c'è quel coso, dice, ma dove? Fallo niente, così va la cosa, ma non la vanno mai. Quello esatto, infatti c'è la scusa per non lavarlo, mi metto un po' di catrame nel canto. E allora, non tiri bello nero, capita, Antone, così è la ruota. Così bisogna fare, c'è chi scende e c'è chi sale. Ma il fatto che noi faremmo sempre lo assemmo mai, se non rimaremmo per naivi, ma cosa sei ordinato? Il fritong ordinato, da 0 a 30, 250 euro cinese, con la tastiera, 100 baffo uscita. Ah, quello che c'ha solo quel tipo là. Che ce n'è solo uno, così è, che lo stava pubblicizzando. Esatto. E ma se chi tu dici che è un buon apparecchio, è bello, ma tu e quando ti arriva? Beh, una settimana, così mi ha detto quello cinese, ma poi non lo so, lo vediamo, non lo so, vabbè, ti metto una settimana, cioè ci mette a arrivare, poi un disco, si è bello, se è bello. E va tu per, a Roma conosce con i barri amici, chi vi ha busturato lo salvito, come volevo fare io, ma purtroppo mi è capitato. Quella tua spesa all'improvviso mi ha mangiato l'idina, mi ha dato male e andiamo rubato. E anche io ho una cosa di così da pagare la rata, la verità. 50 euro al mese, no? Arrivato. Non sto parlando piano piano anch'io. Se non avrei comprato un'altra cosa, ma è trasferita. E invece, vabbè, piano piano. Cioè, come fanno tutti lì. Non è che la faccina facciamo tutti, facciamo tutti ormai. No, a me è rateizzato, me lo faceva solo in due rate, una il mese, no, una il mese che sono andato, due mesi fa, e l'altra il mese appresso, e la digitale rateizzazione è da qui in due rate, quanti sono, quasi 600 euro, 10 da 600 ci manca. Cosa faccio quindi? Non faccio, non risolvo proprio niente. Io pensavo mi facessero le rate di meno, va, da 50 euro per lì. Il vaccino, e allora faccio una cosa, mi dica quando è che scade. E mi ha detto il 5, 7 e mi ha detto, dice allora io un paio di giorni prima lo pago per male il 5. E faccio così allora, e allora scusa, quella lì è l'aiuto che dà, per cazzo due ratti, boh. E lo fisso, io dalle 300 figurati, io pago 50 euro al mese pago, grazie a Dio. Quindi almeno quello, ma non roba mia, è roba del tribunale quando mi avevano saltato lì, figurati. Ce la piglia in culo, 300 euro pagati. Non pago 50 euro al mese della biglia in culo. Un cazzo, io ne ho pagato, la prima volta mi hanno chiamato un bullo, 1800 euro e più, poi ho pagato 1024 euro la seconda volta, la quarta volta ho buscato i documenti, me ne era annullata, e però hanno ricercato e me ne ho giudicata. Vabbè, glielo ho anche detto, io quel periodo lì ero all'ospedale, ero ricoverato e mi ci è uscito la testa. Poi nell'arco degli anni non me ne sono più lamentato, io da cazzo mi pensa. Al 7.30 io pensavo che l'avevo fatto, invece mi sono dimenticato. E allora gli ho portato lo stesso la documentazione, però mi hanno messo a pagare quella quota lì perché... tutti i fogli, no, che hanno scritto loro, capito, lì ho messo la cifra, a se la faccio di Luca nei dipinti, che ha voglia che figurati, aspetta un secondo, sto arrivando subito, ci faccio vedere cosa c'è in giro, magari che è in campagna. Ega, Dio, ma chi è, chi secondo te sono stato in campagna oggi? Ah, no, c'è Maria in campagna, già me la può fare.